Naturalmente non posso che ringraziare tutti chi mi ha invitato, sono molto contenta di essere qui, di fare questo discorso che mi auguro così anche molto confidenziale, insomma, parliamo. Naturalmente mi schermisco, mi ha imbarazzato moltissimo questa presentazione, veramente imbarazzerebbe chiunque. Io non sapevo bene che cosa dire in verità, per cui adesso mi perdonerete perché strada facendo metterò a fuoco le cose, perché uno non sa mai bene da che parte prendere le cose. Inizierò invece proprio in modo molto puntuale da questa edizione antica che è qui presente nella fondazione, perché è la prima traduzione italiana. La prima traduzione italiana è interessante, perché è stata fatta una traduzione italiana nel 500 e da chi? Ecco, secondo me è interessante saperlo. Ecco, e appunto questa traduzione che è uscita anonima però, ma sappiamo noi che è di Ortensio Lando, e che è la prima traduzione, una delle prime europee, la prima è stata in Germania e questa italiana ha preceduto le traduzioni francesi e inglesi che sono successive, addirittura la traduzione inglese è successiva, sapete, vabbè, Utopia di More è stata pubblicata e scritta in latino. Ecco, dopo sono cominciate queste traduzioni e veramente questa traduzione dell'Ando, di questo curiosissimo personaggio, che fa parte di quegli autori, molto brevemente perché non posso soffermarmi più di tanto, però è interessante appunto avere un'idea di chi fosse. Fa parte di quegli autori che in modo un po' generico, un po' sprezzante, erano definiti poligrafi, no? Fino a qualche tempo fa, addirittura avventurieri della penna, ecco, era stata fatta, questi proto giornalisti, diciamo, del Cinquecento, che scopiazzavano un po' qua e là, diffondevano molti testi senza molti scrupoli, senza molta cura, eccetera. Ortensio Lando invece, dai tardi anni 60 in poi, dopo uno studio molto interessante di Paul Grendler, si sono molto rivalutati questi autori, dedicati a tre autori: Ortensio Lando, Anton Francesco Doni, che è lo stampatore presso cui esce appunto l'Utopia di Moro, Ortensio è il traduttore, e hanno veramente, e altri autori hanno suscitato un nuovo e grande interesse. Ortensio Lando, oltre a questa traduzione, compone delle sue opere, e almeno di una vorrei dirvi qualche cosa, perché secondo me si collega e ci fa capire questa curiosità. Cioè sono autori stravaganti, bizzarri, che amano delle tematiche insolite. L'opera più famosa di Ortensio Lando, che conobbe una notorietà europea assolutamente, si intitola Paradossi. I paradossi, anche questo è un genere letterario del paradosso. Non ho portato il testo, ma solo per, sono 30 paradossi e ad esempio vi dico dei titoli di questi paradossi: che è meglio essere brutto piuttosto che bello, che è meglio essere povero piuttosto che ricco, che è meglio essere ignorante piuttosto che dotto, che è meglio essere cieco piuttosto che illuminato, che è meglio essere ubriaco invece che sobrio, e via via di questo passo. Cioè è proprio una attacco a tutti i luoghi comuni, a tutti i pregiudizi, è proprio il rovesciamento, il ribaltamento. Naturalmente sono autori fintamente popolari, no? In verità sono molto colti, sono dei letterati estremamente eruditi e informati, che però usano questa loro redazione in questo senso appunto antipedantesco, contro certi valori anche umanistici, e tentano a frammentare una certa eredità appunto umanistica della prima metà del Cinquecento. Per cui capite che cominciamo a capire bene perché fosse interessato a un testo così Ortensio Lando. C'è anche un particolare biografico. una vita molto errabonda, Lando, in questa sua vita erratica va a Lione, che era uno dei centri dell'editoria europea, e conosce un fratello della famiglia Bonvisi, che era famiglia lucchese molto importante, un cui membro era stato molto amico di Moro, soprattutto negli ultimi periodi, nel periodo della prigionia, per cui lui ha questo contatto diretto con Vincenzo Bonvisi, probabilmente appunto da lì anche c'è una conoscenza diretta di questo testo, che era fratello di questo Antonio Bonvisi, che era stato appunto un amico di Moro, per cui c'è anche questo legame. Ci colpisce di questi paradossi uno che è molto curioso, molto appunto simile ai titoli che vi ho detto, però c'è una parola, secondo me, che è una parola chiave e che ci collega appunto a un altro autore, cioè che è meglio essere pazzo che savio. La parola chiave è la pazzia, cioè da Erasmo in poi la pazzia fa il suo ingresso proprio con tutte le sue varianti, con tutto quello che può voler dire la pazzia, no? Cioè l'elogio della pazzia, pazzia che fa l'elogio di se stessa. L'elogio della pazzia è scritto a casa di Moro, cioè Erasmo e Moro sono molto amici, secondo me è uno degli esempi più belli di amicizia e di scambio intellettuale fra due autori. Cioè veramente, veramente uno scambio ad alto livello, alcuni temi con delle diversità, con delle divergenze. Tra l'altro Moro, Erasmo è un teologo, è un religioso, un uomo di chiesa, ha anche tutta una preparazione degli interessi appunto di tipo religiosi teologici, che Moro non ha. Moro, diciamo, ha degli studi giuridico-politici, Moro ha percorso tutto la carriera politica del suo tempo, è giunto ai vertici, no? Sotto Enrico VIII, la monarchia di Enrico VIII, conosce benissimo la realtà politica del suo paese e giunge appunto ai massimi livelli. Però appunto non è un teologo, non è un religioso, è un laico, un avvocato, uno che ha fatto studi di tutti diversi. Fra i due c'è veramente un'amicizia profonda, uno scambio profondo. E questo tema appunto della pazzia. Vediamo che avrà poi tutta una fortuna incredibile in tutto il Rinascimento. Ecco, un paradosso dedicato alla pazzia, che i pazzi sono più felici. Proprio per dirvi questo gioco dell'inversione, no? Del mondo capovolto, dell'invertire appunto i valori. Vi esorto a leggere questo testo, c'è anche un'edizione moderna, perché sotto questa stravaganza così è molto serio ed è anche molto interessante, cioè sono degli autori di grandissimo interesse, non per niente superficiali, molto al di là della bizzarria, per cui appunto questo paradosso della pazzia, per esempio, che appunto i pazzi sono molto più felici dei sani. C'era uno che credeva di essere il padrone di tutte le navi che arrivava nel porto, per cui è molto felice, e naturalmente suo fratello l'ha voluto guarire e l'ha reso infelicissimo. E poi una figura strepitosa di uno che si credeva papa e ogni giorno si rinchiudeva nella sua stanzetta e così emanava bolle, documenti, dava udienza eccetera per un'ora al giorno, e naturalmente era una grandissima felicità per lui esercitare appunto questo potere del tutto immaginario, che era molto in contrasto con la vita reale, che adesso non mi ricordo più cosa facesse, ma un mestiere estremamente umile e servile, e invece questa era una compensazione anche della sua vita. Ecco, però questo motivo importante appunto della pazzia, vedete come ritornano appunto questi temi appunto erasmiani anche. Ortensio Lando, e tutti i suoi libri sono stati condannati all'indice verso la metà del Cinquecento, per cui sono proprio anche i portatori, i protagonisti, questi autori di questi temi erasmiani, che sono abbastanza in conflitto conflitto con quella che diventerà e si assesterà molto in conflitto con quella che diventerà l'ortodossia stabilita al Concilio di Trento. Ecco, sono questi temi che dopo devono diventare per forza carsici, sotterranei, non potranno appunto più esprimersi. Ecco, forse così abbiamo più un'idea di come è collocata questa traduzione di dizione italiana dell'utopia, dell'utopia di Moro. Passiamo ora a dire proprio, non voglio rubare spazio anche alla mia amica collega, casomai voi datemi dei segni, tiratevi, perché dopo io perdo un po' il senso del tempo, e voglio ricordare alcune pochissime cose del testo di Moro. Lo dico molto sinceramente, e l'hanno detto tutti quelli che l'hanno letto, io penso che tutti qui, noi tutti, l'abbiamo in casa. È uno forse dei pochissimi libri di cui si dice veramente bisogna averlo nella propria biblioteca. Dei pochissimi, non ne salvo poi tantissimi, ma l'utopia di Moro sì, cioè è veramente un libro che va oltre, che supera veramente confini storici, confini ideologici, eccetera. È un libro che vale la pena di avere, che vale la pena di leggere, cioè che ogni volta che lo rileggiamo ci fa meditare, ci fa riflettere e ci insegna qualcosa. Ha fra l'altro un equilibrio, una compostezza, no? Una misura che dopo magari appunto in tanti altri casi verrà persa. Ecco, è proprio la dimensione di una ragione umana, equilibrata, senza sbavature, senza eccessi, senza coloriture eccessive, no? È proprio la ragione umana. Questa ragione umana di cui è portatore appunto questo libro così sobrio anche, che va di pari passo con questi altissimi valori naturalmente che esprime Tommaso Moro, la sua vita e soprattutto la sua morte, cioè questa fedeltà proprio ai principi della coscienza, no? Per cui veramente la fedeltà alla propria coscienza e la fedeltà alla ragione, cioè sono due imperativi che veramente sono condivisibili e si possono accettare da qualsiasi punto di vista. E veramente Moro è l'esempio appunto nella sua vita e nella sua morte di tutto questo, uno rarissimo penso, per cui veramente degno di ogni stima e di ogni rispetto. Due parole sull'utopia, per chi non l'avesse in casa o non l'avesse già letta o l'avesse letta troppo tempo fa e non si ricorda più bene, per cui naturalmente non possiamo, io ho qui per esempio un'edizione di Firpo, ma ci sono una bellissima edizione, la terza, abbastanza diffusa, non c'è nessun problema di accesso. Ecco, come forse appunto ricorderemo, c'è questa struttura particolare del testo dell'utopia. Innanzitutto sappiamo tutti che Moro è l'inventore di questo neologismo, eh? Lui inventa la parola perché inventa il genere, una cosa nuova ha bisogno di un nome nuovo, cioè Moro è un raffinato umanista, come d'altronde lo è Erasmo, traduce dal greco, sa di latino e di greco, e naturalmente è un gioco, no? Inventare questa parola da utopos, il non luogo, no? Il non luogo. Per cui è proprio l'iniziatore di questo filone, di questo genere di pensiero filosofico, letterario, eccetera, che avrà una struttura, che avrà una fortuna strepitosa poi nel tempo, in modo però appunto con esiti estremamente differenziati. Ecco, ed è bene invece ritornare proprio all'origine a vedere che cos'è utopia all'origine. Questi due, perché in genere vi ho fatto un cenno alla vita di Moro, alla sua estrema conoscenza della vita politica del tempo. Ho detto, ricopriva, è diventato proprio gran cancelliere del regno, per cui era proprio ai vertici, perché in genere uno degli atteggiamenti più così, più appunto carichi di pregiudizio, credono che questi utopisti, Cioè, lo scadimento del significato della parola al giorno d'oggi indica proprio uno scadimento concettuale. L'utopista oggi, anche chi fa le parole crociate vede utopista, in genere viene definito come un appunto progetto irrealizzabile o una persona con la testa fra le nuvole che non sa bene come va la realtà, fuga, evasione, cioè sono accentuati questi aspetti. Mauro sapeva perfettamente come andava la realtà e forse scrive Utopia esattamente per quello, perché veramente lui la conosce estremamente bene, conosce estremamente bene i problemi del suo tempo. Ed è interessante appunto come costruisce questa sua opera. La prima parte, che è stata scritta mentre lui era ambasciatore nei Paesi Bassi, tanto per dirvi, no? C'era così un incontro al vertice fra appunto i rappresentanti del sovrano inglese e quelli del sovrano spagnolo, per cui siamo proprio ai vertici massimi, e lui appunto così negli indugi, nei riposi, negli ozi di questa ambasceria, scrive la vera e propria utopia, che è la seconda parte, e cioè questa descrizione di questa isola con i suoi ordinamenti, eccetera. Dopo viene aggiunta questa prima parte introduttiva che in un certo senso spiega, legittima, introduce questa seconda parte di Utopia, e verrà pubblicata appunto questa seconda parte. Dico subito una cosa, perché poi ho paura di perdermi e di non riuscire a dirla, ma questa è una mia idea, è sempre stata una mia idea. Mi ha sempre molto colpito che appunto Mauro abbia scritto questo testo mentre faceva l'ambasciatore nei Paesi Bassi. Uno degli episodi più curiosi, più famosi, più divertenti, più ironici del testo di Utopia riguarda la visita in pompa magna degli ambasciatori famosissimi e paludatissimi dagli utopiensi, no? Ecco, quasi che è lì l'ispirazione, no? Mauro era l'ambasciatore, probabilmente paludato, o gli ambasciatori spagnoli con tutti i loro vestimenti, e improvvisamente ne ha capito l'assurdo, improvvisamente ha capito il ridicolo di tutto questo, ha capito improvvisamente che è una cosa veramente che non aveva nessun senso. Se andiamo a rileggere adesso, appunto non so se abbiamo tempo, se andiamo a rileggere anche questa pagina, ma ve la posso riassumere molto brevemente, questi ambasciatori arrivano e vogliono impressionare quei poveretti di Utopia, no? Che sono dei poveri, che non hanno i vestiti, che si vestono male, sono rozzi, e credono appunto, non capiscono nulla, per cui li vogliono abbagliare con i vestiti, e purtroppo fanno un passo falso, li vogliono abbagliare con questi ornamenti, si mettono tutte le grandi collane d'oro, tutti gli orori, sfoggiano gli ori, senza sapere che in Utopia, appunto proprio una delle leggi, delle regole di Utopia, era proprio per, diciamo, separare il metallo prezioso, l'oro, dal suo valore o dal suo valore simbolico, con l'oro appunto si costruiscono degli oggetti infimi, di bassissimo pregio, del vasellame molto comune, non ha nessun pregio l'oro, perché appunto è solo il valore che gli diamo noi all'oro, e l'oro non ha nessun valore, per cui addirittura si fanno appunto oggetti molto vili, i vasi da notte e le catene per gli schiavi. Le catene per gli schiavi sono fatte con questi oggetti d'oro. Ecco, per cui gli utopiensi disprezzano totalmente questi oggetti, sono dei simboli appunto di schiavitù e di viltà, di gente vile. E loro, mentre avanzano tutti pomposi, c'è appunto il famoso bambino, perché c'è sempre un bambino che parla, che dice la verità, no? E sempre, che tira anche lui la veste alla mamma e dice, ah ma quello, cioè, e deride, no? Questo signore dice, ma questo non è mai cresciuto, ancora un bambino, perché si facevano anche dei giochini, delle collanine, delle cose appunto per i bambini, no? Ecco, quel signore appunto non è mai cresciuto, adesso se troviamo la parola, e la mamma che lo zittisce, no? Naturalmente dice, appunto perché non gli faccia possa fare delle cattive figure. Ecco, ma questo episodio vi fa capire proprio questo valore sempre di ribaltamento, che è fondamentale, no? Ribaltare, no? Quello che sembra aver valore di fatto non ne ha, se non perché glielo conferiamo noi, glielo diamo noi, dipende da noi dare valore alle cose, no? Perché di per sé appunto non ne hanno, come appunto non ce l'ha l'oro. Un altro uso dell'oro, molto strano questo di utopia, ci sono degli aspetti di utopia veramente strani, e ci collega così a un altro motivo, anche questo ci collega anche ad Erasmo, cioè dell'altro oro è usato, e questo è veramente curiosissimo, per corrompere degli eventuali, diciamo, politici stranieri o così, cioè è una delle strategie, degli stratagemmi per evitare le guerre. Cioè la guerra, Erasmo è il padre del pacifismo, dell'irenismo moderno, scrive delle pagine stupende, totalmente, radicalmente contro la guerra. Cioè non c'è nessuna eccezione, la guerra è sempre sbagliata, cioè è frutto veramente dell'aspetto peggiore dell'uomo, per cui è proprio una condanna radicale, senza scampo, è sempre una tragedia e non c'è nessuno. Moro e Campanella, vedremo, c'è il tentativo di salvare, diciamo, quella che noi diciamo la guerra giusta, cioè guerra difensiva, e anche la guerra portata in aiuto a chi subisce dei tiranni, eccetera. Per cui c'è questa attenzione per la guerra e di capire quando la guerra, si può fare la guerra. Però anche Moro, e qui è proprio anche il suo spirito cristiano, uccidere, veramente appunto uccidere le persone, e soprattutto uccidere delle persone totalmente innocenti, che quella guerra non l'hanno voluta, è un crimine contro l'umanità. Per cui bisogna assolutamente evitarla in tutti i modi. Ci sono dei responsabili della guerra, ci sono dei responsabili che non sono quelli che poi vanno alle guerre e vengono massacrati. Per cui per Moro, diciamo, allora, taglia su questi, omicidi di questi, toglierli di mezzo, corromperli, cioè fare di tutto per, come dire, prendersela casomai e eliminare o abolire chi veramente è responsabile di queste azioni, ma evitare in ogni modo una guerra di popoli, perché quello sarebbe veramente un crimine, appunto, un'ingiustizia profonda. Per cui vedete appunto l'uso di quest'oro com'è ambiguo e com'è veramente abbassato, no? A qualcosa di molto vile. Questo vi ho fatto vorrei farvi capire solo questa continuazione appunto di ribaltamento. Quanto tempo ho per dire il tutto? Diciamo un altro quarto d'ora. Per tutto? Sì, adesso mi accelero. Sì. No, non solo. No, no, è anche, diciamo, non... ecco, lei c'ha un suo filo che mi piacerebbe no, cioè... che potesse esporre. Ah. No, ma avremo tempo anche nella... Sì, ma poi ci sarà anche la discussione e tutto. Ecco, questa descrizione della seconda parte dell'utopia, però volevo assolutamente soffermarmi sulla prima parte dell'utopia, appunto vi ho detto, probabilmente inscritta dopo, che è un'analisi molto lucida della realtà sociale, appunto dell'Inghilterra del tempo, del suo degrado, dei disastri che sta portando questa fase preindustriale selvaggia, noi diremmo, no? Ecco, e anche qui questi autori, siccome si permettono di criticare le modalità in cui viene operato un cambiamento radicale della società, vengono tacciati di nostalgie, che vogliono tornare al Medioevo, che non capiscono la realtà del tempo che sta cambiando, ma la capiscono benissimo, ma dicono semplicemente forse non è proprio necessario che questi processi si attuino sottolineò in maniera così brutale e con questa violenza veramente sociale, no? Ecco, lui proprio descrive questa violenza sociale, per cui questo, questo problema che tutti conosciamo dell'Inghilterra del tempo, delle recinzioni, questa espulsione violenta dei contadini, delle masse contadine dai terreni che coltivavano, le loro campicelle, le casette, le famigliole di cui si sostentavano e vivevano, per le famose recinzioni, e questi latifondi per l'allevamento intensivo appunto delle pecore, da cui ricavare la lana e l'industria manifatturiera che appunto era ai suoi inizi. Moro constata con orrore, con angoscia, questo fenomeno appunto del pauperismo dilagante, di queste masse che errano, che non hanno più di che sopravvivere, che sono costretti appunto a questa vita di vagamondaggio, non, sradicati da qualsiasi certezza, sono costretti, cadono anche in furti, rapine, e vengono puniti appunto con la pena di morte. E lì c'è veramente un'analisi molto acuta, no? Di come la società crei appunto i delinquenti o chi delinque per poi giustamente punirli, cioè, ma che è un meccanismo veramente perverso, no? Cioè è proprio il meccanismo di una creazione di una situazione sociale che poi va punita nel modo più sbagliato, perché Moro, e anche qui bisogna dirlo, in Utopia appunto queste cose ci sembrano strane così, ma Moro dice delle cose che veramente facciamone tesoro, appunto uno dei primissimi che veramente parla con molto buon senso della pena di morte, della sua totale inefficacia, della sua totale non solo ingiustizia, ma della totale inefficacia, e l'argomenta molto bene. Parla in una pagina molto interessante dell'eutanasia, fino a che punto, se è lecito, se non è lecito. Parla nella parte finale in modo molto molto anche qui equilibrato del problema di tolleranza religiosa, cioè sono dei grandissimi temi annunciati, che noi crediamo che siano stati, se non inventati, sviluppati, non so, durante l'illuminismo. Ma in realtà è che siamo qui all'inizio del Cinquecento, che ci sono già tutti questi temi, e annunciati appunto, ripeto, con molto, molto, molto equilibrio e da un punto di vista veramente condivisibile. Per cui c'è tutta questa prima parte molto interessante, e di questa prima parte, ed ecco allora l'aggancio, e qui ci fermiamo perché sarà anche un motivo di possibile discussione, c'è proprio il chiedersi, perché è un dialogo fra Moro stesso, questa prima parte è un dialogo fra Moro e questo Raffaele Itlodeo, che ha viaggiato con Vespucci, c'è sempre questa mitologia dell'utopia, l'isola lontana, i viaggi, appunto, il viaggio con Amerigo Vespucci, e in questo dialogo, che evidentemente è un dialogo di Moro con se stesso, no? Cioè si sdoppia lui e Raffaele Itlodeo, e si chiede proprio platonicamente, no? Platone, sapete, è rilanciato nel seconda metà del 400, l'Europa finalmente legge Platone, l'Europa che è stata aristotelica per tutto il Medioevo, grazie alle traduzioni di Ficino, eccetera, l'Europa legge Platone, Moro appunto si chiede proprio e riflette sul rapporto fra filosofia e potere, quello che noi potremmo dire, no? Ecco, il filosofo, che cosa deve fare il filosofo? Che cosa deve fare il filosofo in una situazione così? Ecco, deve, come dire, collaborare per migliorare, e Moro cerca continuamente di esortare questa sua maschera, no? Itlodeo, a dire, ma insomma, tu conosci così bene queste cose, eccetera, devi contribuire a migliorare la tua patria e a migliorarla. E Itlodeo, con un certo nostro stupore, si ritrae continuamente e dimostra come non è possibile per il filosofo collaborare con il potere, con un certo potere almeno, perché dopo viene proprio l'aggancio fra la prima e la seconda parte, è data dalla riflessione sulla proprietà privata, che è proprio l'aggancio fra le due parti, no? Cioè per il filosofo non è possibile migliorare e collaborare con un potere che si basa su dei principi che irrimediabilmente porteranno delle, a certe conseguenze. Ci sono proprio, come dire, delle strutture, delle cose, sono inevitabilmente si giungerà a una serie di problemi. Allora, se non è possibile per il filosofo, diciamo, modificare o consigliare, e il filosofo sarà solo corrotto a sua volta, ecco, se non è possibile per il filosofo migliorare, dare il suo contributo, eccetera, eccetera, allora però è possibile, come dire, descrivere, disegnare un altro mondo, un'altra società. Una società che, proprio la, così, l'elemento costitutivo, l'elemento distintivo, è appunto la negazione della proprietà privata, della comunità dei beni. E da lì, allora, si comincia a ragionare con tutta una serie di conseguenze, eccetera. Ma, se no, non è possibile, non è possibile. Cioè, in un certo senso è proprio, come dire, utopia nasce nel momento in cui si nega la possibilità di un miglioramento della società così com'è, basata appunto su questi principi della proprietà privata. Questo, pochissime cose su Moro, io spero che avremo occasione, magari anche nella discussione, di approfondire qualche cosa. Passiamo all'altro autore e poi, con molto piacere, a Francis Bacon. Campanella è tutto in un diverso contesto, più o meno, diciamo, siamo spostati di un centinaio d'anni, qualcosa più, qualcosa meno. Utopia è stata pubblicata nel 1516, Città del Sole è più o meno scritta nel 1602, per cui vedete che c'è più o meno un secolo di mezzo. C'è un secolo di mezzo ed è un secolo in cui sono successe tante cose, insomma. Ecco, non ultimo appunto Concilio di Trento, le guerre di religione. Una restrizione proprio di tutte le libertà, questo irrigidirsi anche dell'ortodossia, e questa roccaforte ortodossia che diventa appunto molto più rigida, che non tollera neanche più certe eccezioni, certi margini anche di libertà, eccetera. E in Italia. No, infatti, è giusto. Lo stavo dicendo, davo per scontato perché pensavo al povero Campanella. Il paragone con Moro, voglio dire, è l'Italia che purtroppo. E comunque, questo per dire, per ricordare, se ce ne fosse bisogno, ma anche qui penso di no, anche questo, sì, esatto, anche la Città del Sole la potremmo comprare tutti, avere nella nostra biblioteca, tutto sommato, non avrà forse la nobiltà del testo di Moro, però è un testo, questo ne comprende già due, per cui è un testo brevissimo, saranno 30 pagine, 40 pagine, cioè veramente le uniche, diciamo, che sono veramente non sopravvissute, che sono davvero popolari di Campanella, tutti, chiunque è nato a scuola sa che Campanella ha composto la Città del Sole, poi dalla Città del Sole è stato utilizzato questo nome per ogni cosa, per le cose più svariate, però è un testo veramente che poi… Però appunto probabilmente anche molto frainteso anche questo testo, perché Campanella non è solo l'autore della Città del Sole, perché la Città del Sole è veramente un frammento di una produzione vastissima ed è, come dire, occupa una posizione anche precisa all'interno di questo corpus smisurato. In genere appunto con la Città del Sole è stata estrapolata, la Città del Sole, da questo corpus molto complesso del pensiero campanelliano ed è stato inserito in questa collana con tutte le perle delle utopie, no? Ma non lo si capisce, perché appunto togliendolo così violentemente dal suo contesto e mettendolo nella litania, nella serie delle utopie, si perde veramente anche il suo senso. Qui siamo in un contesto totalmente diverso, non solo siamo in Italia, ma in un'Italia particolarmente degradata, siamo nel vicereame di Napoli, governato dagli spagnoli, nella Calabria, nella profonda Calabria, nella Calabria ultra, e dove Campanella ritorna nel 1500, che era nato a stilo, come tutti sappiamo, dove Campanella ritorna nel 1598, dopo 10 anni di di assenza, si era allontanato lui dai suoi luoghi d'origine, aveva ripercorso un po' la penisola, cioè si era recato via via Cosenza, dove aveva visto il cadavere, aveva reso omaggio al cadavere di Telesio, Cosenza, Napoli, Roma, poi era risalito Firenze, Bologna, Padova, per cui aveva avuto modo di conoscere veramente, era fuggito insomma nonostante l'ordine, era domenicano, nonostante in realtà non fosse visto per niente di buon occhio questa fuga, avesse dovuto risiedere nei conventi di appartenenza, c'era stata veramente questa specie di fuga e di contatti anche con varie realtà politiche, culturali, molto aperte, molto diverse da quel che lui aveva conosciuto. E ritorna appunto invece dopo i primi già processi anteriori a quello più grave, appunto in seguito alla questione calabrese, dopo i primi processi gli si intima, dopo questo processo molto grave da parte dell'Inquisizione, in cui è costretto a una biura per come fortemente, deventi, fortemente sospettato di eresia, è costretto a fare il ritorno ai suoi luoghi di origine. E lui ci fa ritorno appunto dopo 10 anni d'assenza, a circa 30 anni, lui è nato nel 68, per cui nel 98 ha esattamente 30 anni, e io penso proprio che sia rimasto totalmente, come dire, turbato, sconvolto, soprattutto dell'incredibile disordine. Cioè è una società, appunto quella calabrese, stilo, ritorno in quei posti, totalmente appunto violenta e disordinata, in cui non funziona niente, in cui veramente tutto è assurdo. Cioè è questa, le utopie nascono perché ci sono le distopie, cioè come moto di rivolta e veramente di orrore, di angoscia verso quella che è chiamata la realtà, che è veramente quella, una cattiva realtà, è totalmente assurda, cioè è totalmente una realtà capovolta, per cui veramente l'impulso a dire ma come dovrebbe essere una società per essere appunto una buona società? Dovrebbe essere esattamente il contrario di questa che abbiamo sotto gli occhi, che è veramente negativa. È proprio l'immagine negativa della foto, no? Cioè questa foto negativa, noi dobbiamo veramente cercare appunto di proiettare di vedere che cosa potrebbe essere in positivo la società. Molto in breve appunto su Campanella, sono state dette tante cose giuste e sbagliate, e la cosa più semplice, però che la chiave di lettura anche più semplice di questa Città del Sole sono le parole con cui la presenta il suo primo editore. La Città del Sole, che è stata scritta in italiano, poi è stata tradotta in latino per ragioni editoriali, per essere pubblicata, e vede la luce nel 1623 per la prima volta, e poi appunto nel 1637 queste edizioni che abbiamo qui riproducono l'edizione Civitas Solis, il testo latino, la traduzione per opera di Campanella stesso del testo latino del 1637. Ecco, il suo primo editore esce in Germania, non può uscire in Italia, Campanella non può pubblicare in Italia, pubblica un'opera, la censura subito, pubblica un'altra, negli anni 30 subito sparisce, sequestrata, cioè lui pubblica a Francoforte, a Parigi, a Lione, cioè all'estero, non è veramente impossibile. E questa Città del Sole, la Civitas Solis, è inserita in un'opera molto più vasta, la Philosophia Realis, la filosofia della realtà, ed è un appendice, cioè ha un suo ruolo, non ha neanche un'autonomia, è un appendice del testo della terza parte, che è la politica, la trattatistica politica. La prima parte è la filosofia natura, la seconda l'etica, la terza la politica, la quarta l'economica, intesa come governo della casa, eccetera, della famiglia, e l'appendice, questo dialogo della trattatistica poetica, è questa Civitas Solis, per cui è inserita appunto in un contesto estremamente diverso. Naturalmente, non lo dico neanche perché penso che sia totalmente noto che quando Campanella ritorna nei suoi luoghi di origine organizza questa vastissima cospirazione, cioè non solo la pensa questa nuova società, ma cerca di realizzarla realizzarla. Nel 99 però, prima che scoppi, prima che si realizzi, prima che abbia inizio questa rivolta, due delatori, due pentiti, oggi diremo, due cospiratori pentiti, lo denunciano al re di Spagna, comincia una repressione feroce di inaudita crudeltà, con questi imprigionamenti, giustizie sommarie di molti partecipanti a questo movimento, eccetera. Campanella viene trasportato a Napoli, dove trascorrerà appunto 27 anni di carcere. Riesce a scampare però alla morte con vari espedienti, e nel 1602, cioè pochissimo dopo questi eventi, questa fallita congiura del 1599, nel 1602 più o meno si accetta questa datazione. In verità non abbiamo dei dati certissimi di quando fu scritta. 1602 viene scritta appunto questa opera che in un certo senso sono state trovate anche delle corrispondenze, no, con questo tentativo calabrese, delle corrispondenze anche puntuali nelle testimonianze di questo processo, eccetera, ma in verità è una trasfigurazione di quegli eventi, non è una riproduzione di quel fatto, del fatto di Calabria, è una trasfigurazione filosofica, no? È una riproduzione, è un'idealizzazione, diciamo, a livello filosofico, appunto, dei fatti calabresi. E dire, ecco, questa è la mia Repubblica ideale, questo è quello che avrei voluto fare o vedere. E la presentazione di questo editore tedesco, amico di Campanella, che aveva conosciuto in carcere a Napoli, che fra l'altro è luterano naturalmente, dice questo testo, ecco, si stacca da tutti gli altri, è originale, è superiore ai modelli del passato di Platone e anche quello più recente di Moro, perché si ispira al grande esemplare, usa proprio questa parola, exemplar, proprio nel senso di modello, della natura. Ecco, cioè, è questo veramente. Cioè, e dico solo due parole su questo, lascio la parola a Marta che giustamente deve parlare, casomai io casomai lo riprenderemo dopo questo. Ecco, che cosa, ecco, l'importanza che hanno, che ha per gli autori rinascimentali della natura. Anche questo è un termine che si è un po'... No, adesso ce ne stiamo rirendendo conto anche noi. Era un termine che era un po' impallidito, no? La natura era diventata così, amo la natura, cioè un po' esornativo, no? Se vogliamo, un po' arcadico nei tempi passati. Ora ci si è resi conto di cosa vuol dire il clima e tutte le altre varie cose. Ci si è resi conto di cosa vuol dire la natura, che non ci si scherza davvero, Cioè, veramente che l'uomo è un essere naturale, ha a che fare appunto anche con la natura e deve avere un rapporto corretto con la natura. Ecco, in Campanella, come in altri autori del Rinascimento, veramente, ecco, questo è proprio uno dei concetti chiave. Oserei dire, forse il concetto chiave di tanta filosofia rinascimentale è proprio quello di natura. Cioè che veramente emerge, è un dato proprio costitutivo, è un termine forte, non è un termine debole, è un termine forte questo della natura, no? E del rapporto nuovo che si viene a istituire proprio fra l'uomo, la natura e la divinità. La nuova rapporto che proprio fra questi tre termini, perché sono sempre questi termini in gioco, no? Se nel periodo precedente quanto più si nega la natura tanto più ci si avvicina a Dio, più o meno, insomma, brutalmente, adesso è il contrario, no? Dio è nella natura, la natura è la faccia di Dio, no? Campanella questo lo sottiene fortemente, la natura è l'arte di Dio, che è appunto la razionalità divina incarnata nella natura, per cui è un termine fortissimo ed è per quello che può diventare il modello esemplare, non è in contrasto con la divinità, ci mancherebbe, anzi diventa proprio un modello esemplare a cui rifarsi, proprio perché è l'arte divina ed è gli uomini che hanno dimenticato, hanno deviato, hanno obliato e tradito, no? Questo, e si sono persi in un labirinto di errori, di sofferenze, di ingiustizie, proprio perché si sono allontanati, hanno tradito proprio questo modello della natura come espressione dell'arte divina. Tutto nella natura è equilibrio, è appunto armonia, bellezza, eccetera. È l'uomo che ha creato, che ha potuto creare dei mostri proprio perché si è staccato e ha istituito appunto questo abisso, questo baratro proprio col modello naturale. Però adesso mi fermerei qui, scusate se è stata, forse spero di avervi dato qualche suggestione più che qualche. E passo.